siamo sempre qua a Locomotive a India Bestie e siamo in compagnia dei Marrano. Tu sei? Daniele, cantante e chitarrista dei Marrano. D'un paio di domande veloci: quando e come è nato il vostro progetto e cosa avete fatto finora? Noi siamo nati nel 2015 e siamo una band di Rimini, rock, abbiamo fatto al momento un EP che è uscito a fine 2015, poi abbiamo fatto un disco nel 2017 che si intitola Gioventù Spaccata e un secondo disco Perdere che è uscito a marzo 2020. Abbiamo sempre fatto dischi, suonato in giro e questa diciamo è la nostra storia, siamo una band rock che prova a suonare in lungo e largo in giro in tutta Italia. Fantastico, sappiamo che recentemente è uscito un nuovo singolo, come si chiama, di cosa parla, vuoi presentarcelo un po'? È uscito Poveri Diavoli, che è uscito l'1 aprile, quindi 9 giorni fa e niente, in realtà è semplicemente un pezzo che racconta di questi ultimi 2 anni in pieno isolamento, alienazione. In cui alla fine volevamo cantare un ritornello che comprendesse un po' tutta questa fascia di persone che si rispecchiavano in qualche modo in questo stato di alienazione e aver voglia di ricominciare a urlare insieme. Tant'è che infatti il ritornello ripete il titolo della canzone, Siamo poveri diavoli, quindi in realtà vuole essere una specie di inno in qualche modo a tornare un pochino a cantare un senso di unione, in qualche modo vuole essere un pezzo che riporta un po' di unione tra le persone. Allora, prima ad ascoltarcelo ti chiedo, avete delle altre date in programma nel prossimo futuro? Allora, abbiamo una data il 27 di aprile a Cesena, al Riot, quindi vicino a casa nostra, e poi suoneremo il 24 maggio all'Arcibellezza Milano. E adesso in questo momento siamo un pochino con il calendario in aggiornamento, sicuramente suoneremo molto in estate e poi faremo il disco. Fantastico, ci ascoltiamo Poveri Diavoli dei Marrano.